A me piace Giovinco, per cui sicuramente mi può piacere che la Cassano, scusa. Ma Giovinco è metrosexual, bisex o omosessuale? L'unica cosa che la legge mi consente di dire è che è metrosexual. Ah, dunque uno dei metrosexual è Giovinco. Non c'è dubbio, è perfetto. Oppure puoi dire, allora facciamo così, dato che non possiamo fare nomi di persone. No, non possiamo fare nomi di persone omosessuali, non li possiamo fare perché Alessandro dice che dopo si va incontro a denunce, giusto? No, ci sono delle leggi precise, giuste, anche per cui chi vuole dire la normalità di sé deve poterlo fare, ma non gli si può fare contro. Invece i metrosexual si possono tranquillamente indicare perché sono dei campioni di eleganza, di finezza, di delicatezza, di attenzione alla cura del proprio corpo, della propria persona, del proprio modo di vestire, e sicuramente Giovinco rientra in quest'ambito. Facciamo qualche altro nome? C'è chi vuole? No, allora, io ho citato questa serie di fotografie di famosi stilisti. Vabbè, ma tanto tu lo sai quali sono. Dimmi un po' quali sono, secondo te, quali sono i tuoi metrosexual, quelli che secondo te... Allora, solo metrosexual, gli altri... dimmi secondo la definizione che ho detto, cioè che sono sicuramente eterosessuali, però hanno una tale cura del corpo... Vabbè, abbiamo capito, quali sono... ...che noi ci fanno sperare. Allora, per esempio, abbiamo detto Giovinco, possiamo dire Montolivo, per esempio... Poi tre hai detto. Basta, una cosa per volta, se no è qui poi che succede? Perché non si può dire, perché non si può dire chi sono gli omosessuali, scusami Alessandro? È perché purtroppo c'è una legge che dovrebbe tutelare quelli che potrebbero essere danneggiati da una liberazione violenta. In realtà serve in questo paese a mantenere la doppia verità e quindi a farci divertire, per fortuna, o alle volte invece dispiacere di fronte a tutto questo giro. Ma come fai a sapere che sono due? Li vedo, i metrosexual si vedono. Per no, metrosexual, gli omosessuali, come fai a sapere che sono due? Lo so, come tutti quelli che conoscono nella realtà il mondo politico. Ma siccome Prandelli dire, scusate se vi interrompo, che Cassano con una battutaccia ha chiuso la sua risposta dicendo: ma poi come lo sa Cecchi Paone? C'è andato? Sei andato con qualcuno della nazionale, Alessandro? Di questa nazionale? Sì, uno sì e l'altro l'ho saputo da quello con cui sono andato. Ah, tu sei andato con uno di questa nazionale? Sì. Sono pieni i giornali di foto, gossip, degli amori dei calciatori con delle belle ragazze o delle belle donne. Prima o poi dovranno cominciare a esserci anche quelli che hanno invece dei bei ragazzi e dei bei giusto, uomini. Ma Prandelli sa chi sono questi due omosessuali o no? Ma certo che lo sa. Ma scusate, vorrei dire, ragazzi, ma mica stiamo parlando di terroristi. Ma no, ma lo dici a me, ma dovrebbe essere tutto trasparente anche secondo me. Tutto trasparente, una casa di vetro, una nazionale. Confessino, dicano, sono io. Confessino, visto che non è una colpa. No, ma confessino in senso... Siamo orgogliosi di dirlo, tranquillizzino Cassano. Qui arriviamo alla conclusione perché dobbiamo andare alla pubblicità. Allora, i metrosexual 2 abbiamo detto, Giovinco, Montolivo, adesso il terzo? Dai, su, ormai ci siamo, dai. Giovinco, Montolivo? Abate. Giovinco, Montolivo, Abate sono i tre metrosexual. Tutto quello che si può dire è questo. E poi perché sono... metrosexual è una descrizione e di tipo estetico. Va bene, benissimo. Dopodiché sono stato con uno della nazionale che mi ha detto chi è l'altro. Chi ti ha detto chi è l'altro? E poi Prandelli sa, questa è la sostanza. Sì, ma non è che sa chissà che, vuole dire lui si cura dei ragazzi perché stiano bene, e ha scritto anche nella prefazione del mio libro che tutti devono vivere alla luce del sole.